Tu crescerai, troverai il tuo amore, tu lo amerai di più e poi sentirai nel cuore quella passione in più che provavi tu. Ma avrai tempo per pensarmi davvero in un'altra realtà delle mie. Tu penserai che la vita è indolore, ma poi ti accorgerai che chi ama può sentire quell'altra forza in più che ti stenderà. Ma trovi tempo per amarti da sola e vedrai che cos'è l'anima. Torno a casa e la trovo deserta, sei già andata via. Esco fuori e non so cosa fare, cosa vuoi che sia. Tutto ciò non ha più senso e adesso che cosa accadrà? Io vivrò con te lo stesso e ti amerò. Hai portato via gli anni più belli di questa mia vita. Non lo dire neanche un istante che adesso è finita. Ripensando a quei giorni che non passavano mai, ma eravamo noi quel mondo, e con le mani tu ora sfiorerai quel vano amore di una vana amicizia che portò a noi due l'armonia. Torno a casa e la trovo deserta, sei già andata via. Esco fuori e non so cosa fare, cosa vuoi che sia. Io vivrò con te lo stesso e ti amerò. Hai portato via gli anni più belli di questa mia vita. Non lo dire neanche un istante che adesso è finita. Vibra.